Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, oggi è il 18 aprile, questa è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che racconta l'Italia. E oggi vi raccontiamo il lungo viaggio di un gruppo di 30 tunisini verso la Francia, un gruppo di tunisini che si è bloccato in queste ore in Val d'Aveto. Andrea Ferro. È un viaggio iniziato quasi un mese fa. La traversata del Mediterraneo sulle carrette fino a spiaggiarsi a Lampedusa, ingorgata dagli sbarchi, poi il trasferimento a Caserta e da lì un'altra tappa intermedia assolutamente imprevista. Sui pullman credevano di arrivare in Francia, meta agognata per un futuro carico di speranza, invece sono finiti in uno spicchio montano di Liguria, quasi al confine con l'Emilia. In Val d'Aveto, 1000 metri d'altezza, più di 40 chilometri dal mare, un paese di 25 abitanti nel territorio comunale di Rezzoaglio, il sindaco Roberto Fontana. Precisamente io vengo a sapere da una telefonata alle 19 di giovedì sera che sarebbero arrivati 33 tunisini così di colpo. Ho avvisato immediatamente il comandante della stazione, l'indomani mi sono messo in contatto con la regione, con la prefettura e tutti, a parte la regione, anche la prefettura, sono caduti un po' dalle nuvole perché anche loro lo sapevano. Da lì ci siamo cominciati a guardarci un po' attorno, a cercare di organizzare nel miglior modo possibile la cosa. Sì, tutto sommato, anche se qualcuno rimarrà sempre comunque contrario, diciamo che non succede. Successo assolutamente niente, quindi però l'impatto è stato pesante per noi, perché una comunità di 25 persone, ne arrivano 31 che non si sa da dove e come sono, poi guardando la stampa uno magari pensa che siano chissà cosa, che siano dei diavoli, cosa che non si è verificata assolutamente. Poi ho parlato con l'assessore Rambaudi, mi ha assicurato che entro 10 giorni verrebbero portati a Genova perché adeguano le strutture, quindi direi che la situazione è sotto controllo al massimo. A cena, in albergo, dopo aver finito il primo, i tunisini si sono alzati. Perché a Lampedusa e Caserta il piatto era unico, ha spiegato l'interprete. Li hanno fatti risedere e hanno servito il secondo. E il giorno dopo, riso, pollo e polpettone. E in TV la partita. Ma per quasi tutti il pensiero resta incollato alla tappa successiva del viaggio, la Francia. L'obiettivo è, diciamo, raggiungere sua famiglia in Francia, e c'è qualcuno magari, diciamo, in zona di Liguria che raggiunge Parma, Genova, centro, hanno qualche famiglia qui. Quindi tutto ringraziano a tutti, ringraziano l'Italia, ringraziano il governo italiano che, cioè, loro non aspettavano tutte queste cose, sono contente. Sì, in Francia già fanno le telefonate, stanno organizzando un po' con la situazione con la sua famiglia, il suo parente. Già alcuni sono andati già da ieri, domani quasi 10 dovranno partire, diciamo. Gli abitanti di Rezzoaglio, liguri di montagna, osservano un po' preoccupati questi capanelli di uomini smarriti, mentre alla TV e alla radio scorrono le notizie dei divieti imposti dalla Francia, dei confini aperti a singhiozzo, delle scaramucce tra diplomazie. I carabinieri vigilano. Per un incrocio di buoni propositi e di coincidenze, il primo gruppo di migranti inviato in Liguria è arrivato quassù, lontano da Genova, dove l'annuncio da parte del comune delle strutture nelle quali ospitare gli stranieri ha acceso la tensione. L'altra notte, in una vecchia scuola di San Pier d'Arena, individuata tra i centri di accoglienza, sconosciuti hanno fatto esplodere una bomba, un gesto dimostrativo che ha scosso la città. Il presidente della regione Liguria, Claudio Burlando, è salito in Val d'Aveto per incontrare il gruppo di immigrati. Il sindaco e una delegazione di abitanti del posto. Sono persone giovani che vengono da sud dalla Tunisia, che per lo più sperano di poter raggiungere parenti in Francia o in altri paesi europei, qualche caso anche in Italia. Che approfittando di una situazione, come dire, di confusione, hanno fatto ciò che non potevano fare prima di questo momento. È evidente che è interesse di tutti accoglierli in centri come questi, potendo, come dire, curare eventuali malattie. Qui ce n'erano un paio malati, ma per fortuna non gravemente, consentendo poi, col permesso temporaneo di soggiorno, di avere una sistemazione presso le famiglie di origine o comunque presso comunità che loro conoscono già. Credo che si debba fare così, superando anche questo momento di difficoltà con la Francia, che è inaccettabile, perché è stato dei numeri che l'Europa è in grado di gestire con facilità. Poi è evidente che laddove ci fossero invece fenomeni diversi, di attività criminali, eccetera, che peraltro sono già presenti anche in Italia di loro, e allora si deve intervenire con le forze dell'ordine. Invece in questi casi qui il problema è diverso, è un problema di accoglienza veramente molto temporanea, in attesa di un'estremazione che poi diventa autonoma. Insomma, in un giorno un terzo è già sistemato autonomamente. Insomma, sono convinto che in pochi giorni, massimo una settimana, 10 giorni, tutto finirà bene. Insomma. La giornata trascorre nell'attesa indeterminata di una nuova partenza. C'è chi aspetta il denaro dai parenti, ma quassù non ci sono i phone center per riscuoterlo. Forse ci proveranno con la posta. Quelli che se ne sono già andati hanno potuto contare sulla tempestività degli amici. Al telefono gli hanno detto dove si trovavano e sono venuti a prenderli. Anche qui, in fondo, è una questione di denaro, come con gli scafisti all'imbarco in Tunisia. Grazie Italia, grazie governo. Tutto va bene in hotel. Sto andando a Parigi. Sarkozy is not good. Da Genova ci spostiamo a Palermo, dove la mafia torna ad uccidere e a sparare. Monica Ceravolo. Molti mesi di silenzio, poi a Palermo si contano 2 omicidi in 3 giorni. 2 morti ammazzati in maniera inequivocabile, freddati con un colpo di pistola alla nuca, nella tipica maniera usata dalla mafia per eliminare personaggi scomodi. C'è di più. La prima vittima è stata incaprettata, probabilmente torturata prima di essere uccisa. Il suo corpo, nudo, con solo le mutande addosso, è stato trovato, legato, mani e piedi e chiuso dentro il portabagagli di una Fiat Uno, roba che non si vedeva dagli anni Ottanta. A Palermo niente succede per caso, non è casuale che i suoi assassini volevano fosse trovato così, ammazzato e umiliato. Antonio Ingroia, procuratore aggiunto a Palermo, prova a dare un significato. Certo, è un sintomo preoccupante. Dopo un anno di silenzio delle armi, che ci siano 2 omicidi, direi quasi inequivocabilmente di mafia, nell'arco di 3 giorni, è preoccupante. L'incaprettamento è una tipica tecnica dell'omicidio di mafia. In genere è utilizzato come strumento anche di tortura per chi viene sottoposto a una sorta di interrogatorio da parte dei mafiosi, che hanno bisogno di sapere qualcosa. Il morto è Davide Romano, un 34enne che ha trascorso gli ultimi 15 anni entrando e uscendo di galera per fatti di mafia e di droga, nato e cresciuto in un ambiente mafioso. Suo padre è sparito col metodo della lupara bianca nel 95. Giovan Battista Romano, boss del Borgo Vecchio, venne attirato in una trappola, strangolato e sciolto nell'acido. Il figlio Davide ha scontato 5 anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsioni. Poi è stato riarrestato per spaccio. Era tornato a casa lo scorso febbraio in regime di sorveglianza speciale ogni giorno. Doveva rincasare entro le 21, ma il 4 aprile non è tornato e 2 giorni dopo è stato trovato cadavere. I suoi familiari sono arrivati sul luogo del delitto, lontano dal loro quartiere, Borgo Vecchio, prima ancora che la vittima fosse identificata. Evidentemente qualcuno li aveva avvertiti ed evidentemente non sono state le forze dell'ordine, perché non sapevano ancora chi fosse il morto. Passano 2 giorni. L'8 aprile il cadavere di un altro 34enne viene trovato alla periferia di Palermo dentro un appunto, riverso sul sedile al posto di guida, col cranio sfondato da un colpo di pistola. Claudio De Simone, un pregiudicato con precedenti penali per detenzione di armi, stava aspettando la persona che gli ha sparato, il motore dell'auto era spento e il freno a mano tirato. Cosa sta succedendo a Palermo? È ipotizzabile che ci troviamo all'inizio di una nuova guerra di mafia? È un fatto che c'è stato un secondo delitto di sangue dopo un anno di silenzio totale. La coincidenza temporale è significativa, però non è che è detto che le due cose siano collegate e assimilabili. Può darsi che voglia essere un segnale di un gruppo che vuole far capire alla controparte chi comanda una certa zona. Bisogna tenere conto che l'arresto di tanti capi mafia negli ultimi tempi ha determinato il fatto che alcune zone i vertici sono stati letteralmente decapitati, quindi c'è una situazione assolutamente magmatica in evoluzione che è suscettibile di innescare guerre di mafia al fine di conquistare la supremazia su determinate zone. Cosa Nostra è ancora viva, vegeta, capace di commettere omicidi anche di tipo tradizionale. Secondo noi non esiste un capo a Palermo, cioè non c'è un capo assoluto. Ci sono stati tentativi di nuova riorganizzazione, ma gli ultimi grossi capi palermitani sono stati Piccolo e poi Nicchi, che sono stati arrestati. Quindi questo però proprio per ciò determina una situazione di instabilità, e quindi è possibile che dall'instabilità nascono anche gli omicidi. Io non voglio generare allarmismo, però dico che è chiaro che nel momento in cui si innesca una spirale violenta, è bene tenere gli occhi ben aperti e tenere alta la guardia. Il quadro dunque è quello di una città in cui la criminalità mafiosa, lontana dall'essere sconfitta, ha ripreso le armi e manda segnali lasciando morti ammazzati per strada. Una criminalità senza un capo, con tante teste e molti interessi economici illeciti da spartirsi. Niente allarmismo dunque, ma stare attenti, molto attenti, è d'obbligo. Italia in controluce, la seconda edizione termina qui, cercateci tutti i giorni su Facebook, su Twitter, abbiamo il nostro blog su radio24.it dove potete anche scaricare sul nostro sito tutte le puntate andate in onda, compresa questa, oppure via mail controluce@radio24.it. Torniamo domani con le storie dei carceri raccontate da Cristina Carpinelli, domani alle 6.30 su Radio 24.